Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, con questo suono di tamburi auguriamo buon Ferragosto a tutti, buon Ferragosto anche all'ospite di oggi, che è padre Piero Gheddo. Buongiorno padre Gheddo. Buongiorno, grazie di avermi chiamato proprio il giorno dell'Assunta, il giorno di Ferragosto. Il giorno dell'Assunta sì, che è particolare, un giorno, una grande festa religiosa che sì, è diventata una festa civile che celebra un po' le vacanze. Già da tempo c'erano le vacanze per Ferragosto. Celebra le vacanze e celebra anche i viaggi. Lei, viaggi, certo. È nella copertina di uno dei suoi ultimi libri, si dice il più famoso missionario d'Italia, wow, quindi anche un grande viaggiatore in questo grande senso. Questo sì. Lei ha visitato... Perché io quando sono diventato sacerdote nel 1953, sono nato nel 29, quindi ho 81 anni. Complimenti. Mi è calato un po' la voce, ma ce n'è ancora. Dunque, nel 50 sono diventato sacerdote, dovevo partire per l'India, ero destinato all'India, perché nasceva una nuova diocesi. Prima in India lavora da 160 anni e ha fondato 12 diocesi. E io andavo in una di queste nascenti allora, Varangal. Però prima di diventare prete scrivevo già sui giornali, ero giovanotto, 20-22 anni, mi ficcavo nella redazione, scrivevo, e mi hanno detto: guarda, stai qui 6 mesi, 1 anno, perché il vecchio padre delle riviste è ammalato, e tu che sei prato, io 6 mesi ci sto volentieri, poi parto per l'India, parti. E dopo 6 mesi, 8 mesi il padre è peggiorato, io ho preso in mano le riviste, le ho cambiate e mi hanno tenuto lì. Quindi ha fatto il giornalista missionario. Il giornalista missionario, poi protestavo, volevo andare in missione e ho cominciato a viaggiare appoggiandomi ai giornali laici. Il primo è stato Il Giorno, poi è stato Oggi, no, Gente di Edilio Rusconi, sì, che e poi ho collaborato con Oggi, con Epoca, e poi col giornale, con il Sia Montanelli, eccetera. Quindi eccetera. Nell'ottica di, in fondo, annunciare il Vangelo, certo, dove, ho cercato, sì. In tutti i posti dove può tutti essere... Tutti i posti dove posso arrivare, dove mi invitano. Facciamo un piccolo passo indietro. Come è nata la vocazione sacerdotale? Ma è nata da mio papà e mia mamma. Perché mio papà e mia mamma erano due dell'Azione Cattolica, di quel tempo là, mi sono sposato nel 1928 in un piccolo paese del Piemonte, della provincia di Vercelli, Tronzano, nel paese delle Risaie, e Crova veniva mia mamma e Tronzano era il papà. Sono sposati, a Dio hanno chiesto, ragazzi, di avere molti figli, a quel tempo molti figli, l'Azione Cattolica, e poi che almeno uno si facesse prete e uno si facesse suora. E questo è avvenuto? E questo è avvenuto in questo senso, che io sono nato nel 29 e sono diventato prete. 30 Francesco, 31 Mario, poi un aborto spontaneo, poi la mamma è morta, di parto e di polmonite in questo piccolo paese, non c'era mica ambulanza o che so io, insomma, quindi è morta di parto e di polmonite a 31 anni e mezzo, quasi 32, io avevo 5 anni, e i 12 figli che volevano, papà andava in giro a dire: Piero è il primo dei 12, e non sono venuti perché la mamma è morta. E papà era talmente innamorato della mamma Rosetta, che poi la sua mamma, la nonna, la zia, diceva: Giovanni, sposati, sei giovane, aveva 32 anni. Ci sono tante ragazze, tante giovani donne che vorrebbero sposare. Lui è un uomo geometra, presidente dell'Azione Cattolica, uomo in vista nel paese. E lui diceva: io sono stato talmente, e sono ancora talmente innamorato di Rosetta, che non potrei pensare di sposare un'altra donna. Ai miei bambini ci pensate voi, fate voi le mamme, infatti noi abbiamo avuto nella nonna e nella zia. Però mi dicevano poi questi parenti che io ancora ragazzino, 6, 7, 8, 9 anni, quando qualcuno mi chiedeva: Pierino, cosa farai da grande? E io rispondevo: il prete. Senza peraltro aver avuto direttamente No, sapevo, perché poi papà è andato in guerra in Russia, è morto in Russia, che avevo 12 anni, la mamma è morta che avevo 5. Me l'hanno detto dopo che sono diventato prete, per non influenzarmi, no? Il parroco stesso mi ha detto: oggi che tu celebri la prima messa, il Signore esaudito la preghiera di tuo padre e tua mamma, che qui sposandoci hanno chiesto un figlio prete. E io sono stato talmente contento di questa rivelazione, perché nella mia vita, dico la verità, non ho mai avuto altro scopo, altra mira, altro desiderio, altra passione che di fare il prete. Non sapevo neanche cos'era all'inizio, facevo il chierichetto, ma sai come si dice, certo. Uno giorno per il prete, un giorno per il meccanico, un giorno per l'ingegnere. E così poi dopo dal seminario di Vercelli sono diventato poi missionario, perché mi stava stretta una diocesi e ho visto il mondo intero e poi ho girato il mondo intero davvero. Quindi seminarista, poi prete, poi appunto poi sacerdote, missionario. Poi sono entrato nel Pontificio Istituto Missionistico di Milano, in via Monterosa, vicino a voi, al Sole 24 Ore. A due passi dalla casa vostra. E poi ho incominciato a girare il mondo collaborando con i giornali laici. Collaboravo già con Avvenire, il giornale cattolico, però in Avvenire c'erano tanti preti che scrivevano, tanti cattolici. Io ho detto: ma tu sei giovane, vai un po' in giro. E ho girato e collaborato con tutti i grandi giornali, e poi sono venuti nella radio televisione in un secondo tempo, eccetera. Insomma, quindi ha girato un po' tutto il mondo. Girato il mondo davvero. Qual è la realtà della missione oggi? Quanti sono i missionari? E qui è un po' difficile dirlo, perché i missionari noi adesso in questo momento intendiamo dei paesi cattolici, cristiani, da lungo tempo, Francia, Italia, Spagna, eccetera, eccetera, che sono andati a fondare la Chiesa nei paesi non cristiani. Questo fino al Concilio Vaticano II, praticamente, quindi fino a 50 anni fa. Il Vaticano II è del 62 al 65. Prima la missione era proprio questa: i missionari stranieri che vanno, infatti il PIME è nato 160 anni fa, proprio qui a Milano, cioè è nato a Saron, ma è venuto a Milano, e ha mandato missionari in tutto il mondo, abbiamo fondato tante diocesi. Poi il missionario è diventato un'altra cosa, cioè è ancora lo stesso. Giovani, uomini e donne, suore, preti, volontari laici, fratelli, che vanno dai paesi cristiani a fondare la Chiesa dei non cristiani, ma poi hanno incominciato a nascere le chiese locali, che avendo tante vocazioni mandano missionari. Quindi per esempio l'India, che ha un 30-35 milioni di cattolici, ha una bellissima comunità, una bellissima chiesa, anche perseguitata, che manda parecchi missionari all'estero. Tra l'altro molti sacerdoti vengono anche in Italia. Vengono anche in Italia. Oggi in Italia abbiamo su 32.000 sacerdoti diocesani, poi ci sono i religiosi, i missionari, cioè 62.000, abbiamo circa 2.500 preti che vengono dall'India, dall'Africa, dalle Filippine, dall'America Latina, da tutti i paesi, insomma. Ecco, parliamo dalla Polonia. Indubbiamente, sì. Quindi è uno scambio che adesso si scambio. Cioè, la Chiesa sono diventate più, noi diciamo, la comunione fra le Chiese, cioè l'interdipendenza, l'invio. Se dovesse scegliere un paese dove andare in missione adesso, quale paese sceglierebbe? Ma a dire la verità, all'inizio dovevo andare in India, quando sono diventato prete. Sì. Poi non mi ha mandato per fare il giornalista, perché avevo già questa tendenza. E dopo dico la verità, noi dipendiamo dai superiori del PIME, no? Pontificio Istituto Missioni Estere, i quali mandano in giro, in tutto il mondo, molti paesi, insomma, missionari secondo le necessità del momento, eccetera. Io non ho una preferenza. A quel tempo ho dovuto andare in India e sono innamorato dell'India, a dire la verità. Perché è un paese, lo trovo un paese, come dire, nella cultura, anche se oggi è abbastanza perseguitata la Chiesa, ma qui bisogna fare un lungo ragionamento. Io penso che nei paesi non cristiani l'India sia il paese più vicino alla cultura cristiana, al cristianesimo, a Gesù Cristo, di tutti gli altri. Ecco, facciamo anche un po' di pubblicità. Uno dei suoi ultimi libri, anzi l'ultimo libro è Missione Bengala, i 150 anni del PIME in India e Bangladesh. Quindi un libro molto molto ricco, sono oltre 500 pagine, in cui descrive la realtà di questi paesi appunto culturalmente vicini, come attenzione molto anche vicini, perché la religione indiana, che è l'induismo, che oggi rinasce purtroppo in senso politico, allora diffonde lo slogan l'unico indiano, l'unico vero indiano è l'indù. Quindi nella cultura popolare i cristiani sono visti come persone che vengono dall'esterno, insomma, anche se sono indiani di nascita. Mentre però nell'induismo moderno, da Vivekananda, Ramakrishna, Gandhi, Vinoba Bhava e tutti gli altri, c'è assolutamente una forte tensione verso il cristianesimo, verso Cristo, verso la figura di Cristo. Gandhi stesso diceva: la mia teoria della non violenza viene dalle beatitudini di Gesù Cristo. Questo non ricorda mai nessuno. Dicono: l'India è il paese della non violenza. Un bel niente. Gesù Cristo ha raccomandato, eccetera. Comunque, l'India appunto ha questa cultura religiosa, teologica, scettica, cultura anche nelle altre classi di romanzi, eccetera, eccetera, molto vicina al cristianesimo, cosa che non succede in altri paesi non cristiani. E quando si pensa ai missionari, di solito immediatamente si pensa all'Africa come una terra di missione. Ecco, l'Africa è ancora proprio terra vera di missione, nel senso, le chiese sono già fondate in tutti i paesi. Io ho girato l'Africa dal Sudafrica allo Swaziland, al Mozambico, al Marocco, da tutti i paesi, quasi tutti, mancano alcuni. Più persino a Gibuti, nello Swaziland, nella Namibia, insomma, sempre perché chiamato. Poi all'inizio io viaggiavo per i giornali italiani, poi hanno cominciato a chiamarmi i vescovi, i preti, i missionari locali. Vieni qui che poi scrivi di noi, riceviamo offerte, riceviamo aiuti, eccetera. E allora ho cominciato a viaggiare in risposta a questi inviti dei vescovi soprattutto. Ecco, in questi paesi africani ovviamente c'è un problema di evangelizzazione, ma c'è anche un problema di sviluppo. Di sviluppo, certo. Si possono mettere insieme questi due elementi? Ma certamente, anzi, io sono convintissimo, e se messo il tempo lo dimostrerei chiaramente, che l'educazione al Vangelo, l'evangelizzazione, che è portare il Vangelo e la parola di Cristo e l'esempio di Cristo in queste culture, crea sviluppo, perché crea uomini più impegnati nel lavoro, crea uomini più coscienti della loro dignità, crea famiglie più unite, crea il senso del perdono, il senso dell'amore, il senso del... E quindi questa è la radice dello sviluppo. Perché l'Africa non si sviluppa? Ecco, questa è una domanda questa importante. Domanda che meriterebbe una trasmissione, certo. Sola. Perché non si sviluppa? Per questo motivo fondamentale. Perché la cultura africana, la cultura, la mentalità, le abitudini, i costumi, vengono da una economia di sussistenza, come un po' preistorica. Quindi hanno un po' ragione quelli che dicono che gli aiuti solo economici che vengono dall'esterno... Sono economici, sbagliato. O arrivano aiuti per educare, e poi gli africani fanno le opere che devono fare, certo anche assistendoli tecnicamente, eccetera. Ma il fondamento dello sviluppo africano, che nessuno ancora veramente capito, eccetto i missionari, i volontari laici, che vanno per educare, anche quando fanno le dighe o fanno dei canali irrigui, educano, perché stanno lì con la gente anni e anni. Io ho incontrato in Africa, mamma mia, missionari, ma del PIME di tutti gli istituti, ormai conosco tutti, che sono lì da 40-50 anni, sono più ugandesi degli ugandesi, più congolesi dei congolesi. E loro vanno a fare che cosa? Sì, a portare il Vangelo, si capisce, quindi con il loro esempio, con l'istruzione religiosa. Ma vanno soprattutto a educare attraverso l'insegnamento pratico, partendo dalle scuole elementari, partendo dall'educazione, per esempio l'agricoltura. Io dico sempre questo esempio che stupisce la gente quando parlo di questo. Io vengo dalla provincia di Vercelli. Certo, riso. Riso, dove produciamo riso? Il mio paese è Tronzano, Vercellese, in mezzo al riso. Allora, noi produciamo 80 quintali di riso all'ettaro. Nell'economia africana normale, non nelle aziende agricole molto evolute, che sono pochissime, producono 5 quintali. Perché? Perché non hanno le sementi, non hanno l'irrigazione, non hanno gli strumenti, non hanno il cambio delle culture, non hanno. C'è un po' anche un'abitudine, forse, una mancata volontà di crescere. Mancata di educazione. Chi va ad educare gli africani a produrre in modo diverso? Chi va a portare gli strumenti? Pochissimi. Ma questo anche come si concilia con il rispetto che si deve anche a certe tradizioni, a certe culture? Ma loro aspirano a svilupparsi. Non è che io vada ad imporgli una cosa a cui loro non gliene importa nulla. No, aspirano anche loro ad essere autosufficienti in senso economico. Ma finché non cambiano quel tipo di economia, di produzione lì, e quel che dico del riso, lo dico del latte, per esempio. Le nostre vacche lattifere qui in Piemonte e Lombardia producono 25, 28, 30 litri di latte al giorno. Se vai in Africa e trovi eserciti di vacche, quanto latte producono? Non producono latte. Come non? Ma certo non producono. Quando hanno il vitello producono un litro o due, ma per il vitello non producono latte. Il latte è sconosciuto. Quindi stiamo parlando con un missionario, abbiamo scoperto un agronomo. No, io mi interesso di queste robe qui. Per cui, quando gli aiuti dei governi occidentali arrivano in Africa, sono giusti, belli, eccetera, una parte notevole è intascata dalla corruzione dello Stato. Questo è enorme. Se c'è in Italia, dove c'è un'opinione pubblica, una giustizia, una polizia, che giornalisti attenti. Là è a grado sommo, potrei raccontare degli esempi incredibili, ne racconto uno per dire, no? La Nigeria nel 2006-2007 aveva un debito estero di 90 miliardi di dollari, che produce petrolio e quindi guadagna, ma i capitali nigeriani nelle banche straniere, dati dalla Banca Mondiale, non invento mica io, erano di circa 130 miliardi di dollari. Capitali esportati per comprare case in Francia. Questo da parte delle oligarchie del paese. Le oligarchie, no? Conquistano il potere, non essendoci opinione pubblica, perché il popolo non è istruito, è logico, loro favoriscono il villaggio, la tribù, la famiglia, eccetera. Ma stavo dicendo, quel che si dice del latte, che so io, del riso in campo, si dice delle industrie. È inutile andare a costruire un'industria dove la gente non è abituata a lavorare nell'industria. Certo. Non ha senso. Ho visto io un sacco di industrie, ma dall'Italia, in Somalia mi ricordo una fabbrica per lavorare la carne di cammello che ha mai prodotto, in Guinea Bissau dove siamo anche noi del Pime, un mulino per il riso capace di produrre non so quante centinaia di tonnellate al giorno ha mai prodotto un grano di riso, perché i piccoli contadini che producono quel poco riso se lo consumano loro, lo vendono nel mercato del paese, buonanotte, insomma. Quindi c'è un abisso, bisogna capire questo, c'è un abisso tra noi popoli ricchi, popoli sviluppati, popoli purtroppo in crisi per un altro senso morale, che so io, di gioia di vivere. Guardate che quando vado in Africa e trovo una gioia di vivere, mi commuovo. Certamente. E indubbiamente uno degli ultimi libri, l'anno scorso mi sembra, ha proprio come titolo Ho tanta fiducia. Ho tanta fiducia. Tanta fiducia in che cosa? Nell'uomo. Nell'uomo, nella persona. Nella persona umana e in Dio. Indubbiamente. Io ho tanta fiducia perché trovo dei popoli, scusami se mi commuovo, ma io ricordare i popoli africani, ultimamente sono stato in Camerun, come i popoli asiatici, che gemono sotto la miseria, la povertà, la dittatura, e non hanno la scuola, non hanno la scuola, ragazzine, ragazzine, giovanotti che non sanno, vorrebbero fare, forti, pieni di vita, non vorrebbero fare, non sono organizzati, non hanno la scuola, non hanno l'educazione, non sanno produrre. Quella poca produzione di riso che bastava quando c'era poca popolazione, prima della colonizzazione, dopo con l'introduzione dei vaccini, delle medicine moderne, oggi la popolazione è scoppiata, non basta più. E quindi chi va ad educare i poveri? E in India i pari, io ti parlassi dell'India, ci sono avventure meravigliose, ho fatto anche libri sull'India, o sul Bengala, questo qui, Missione certo. Bengala, che è un libro di storico, fatto fonti di archivio, fatto insomma seriamente, ma che però è un romanzo d'avventure, perché tu vedi questi missionari che arrivavano in Bengala, nell'India di quel tempo, in popolazioni molto povere, incominciavano a fare che cosa? Uno pensa, missionario, portare il Vangelo. No, prima fai la scuola. Certo. Prima fai la scuola. Ecco, purtroppo avviandoci alla conclusione, potremmo continuare per delle ore a raccontare tanti episodi. Queste cose qui, che io dico così rapidamente, perché ti ringrazio già che mi hai chiamato, ma io vorrei che fossero più diffuse, più conosciute, perché insomma finché il nostro popolo italiano non è cosciente di quel che può fare per i popoli poveri, continua ad accusare le multinazionali, prima il Bush, adesso poi il Berlusconi, accusare i grandi della terra, avranno le loro colpe anche loro, ma il problema è che deve muoversi il popolo, ci vuole una mobilitazione di popolo italiano per andare incontro ai popoli africani e gli altri sottosviluppati. Perché se non c'è un popolo che si muove, che dà, ma non solo che dà soldi, che va ai giovani, i giovani che non hanno... Andate in Africa a lavorare, andate in Africa a fare i volontari, mantenuti dalla missione, si capisce, ma andate in Africa a dare le vostre giovani forze e allora imparate anche cos'è la vita. E questo vuol dire avere fiducia in fondo nella vita, avere fiducia nel futuro. Io ho fatto questo libro, Ho tanta fiducia, con il giornalista di Avvenire Roberto Beretta, perché ho tanta, si vuole dire anche 80. 80 anni. L'anno scorso compivo 80 anni, quindi compivo 80 anni, ho tanta fiducia, con domande sue su tutti i temi della missione, della Chiesa, e ho risposto, insomma, secondo la mia esperienza, con tanti esempi molto concreti, e va molto bene, insomma, perché sono risposte che vorrei che fossero diffuse di più in Italia dai mass media. Noi abbiamo cercato di fare anche questo. Ringraziamo Piero Ghedo di essere stato con noi questa mattina. Auguriamo a tutti quanti ci ascoltano buona domenica e buon Ferragosto. Un messaggio di fiducia, un messaggio di fiducia nelle persone, un messaggio di fiducia in fondo in ciascuno di noi. Fiducia nelle persone e fiducia in Dio. Perché se non c'è in mezzo Dio nello sviluppo dell'uomo, andiamo a finire nello sviluppo come il nostro, che sì è uno sviluppo tecnico, economico, giuridico, politico, organizzativo, eccetera, eccetera, ma è un sviluppo che non ci dà la gioia di vivere. E un uomo senza la gioia di vivere, che cosa fa? Che cosa fa l'uomo? Se non ha la gioia, se non ha Dio, se non ha l'obiettivo del paradiso, del migliorare la condizione umana, eccetera. E anche questa è concretezza. Anche questa è molto. Grazie. Piero Ghedo, grazie a Peter Bascapè in regia, di Tapanizza in redazione. Questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.